Riprendiamo quindi il filo conduttore della puntata. Abbiamo sentito dell'avanzamento del processo e della prossima sentenza riguardo il processo appunto Robin Hood. Abbiamo avuto anche un contributo audio da Via Bolla e ora parleremo con un compagno, appunto partendo da Via Bolla e cercando di capire come sta cambiando la città che viviamo. Ciao, ci senti? Ciao, sì, vi sento benissimo. Ciao, sì, ti alzo un Ciao. po' che ti sentiamo un po' lontano. Allora, niente, appunto, partendo da Via Bolla, se hai voglia anche tu di darci un'analisi della situazione dal tuo punto di vista rispetto al tuo vissuto. Sì, mi sentite? Sì, ora, ora Vado meglio, bene? sì, perfetto. Ok, perfetto. Allora, io il mio vissuto parte dal fatto che sono stato nell'ultimo anno a vivere a Milano, molto vicino a Via Bolla, e ho studiato per varie ragioni un po' le evoluzioni del mercato immobiliare, delle situazioni immobiliari nel quartiere Gallaratese di cui Via Bolla è parte. Ma io credo che una parte importante della storia di Via Bolla sia ricollegare quello che è successo negli ultimi anni, anche il peggioramento dei conflitti tra i vari gruppi che abitavano in Via Bolla, a partire dall'Expo, perché l'Expo è stato un evento molto importante in quella zona, perché per due motivi. Il primo perché è dallo sgombero di un campo legato a Rom che vivevano lì vicino al Torchiera, che parte una parte della storia di Via Bolla, e quel campo è stato sgomberato per l'Expo 2015, Ma quindi l'Expo è parliamo del stato un campo innesto. di Triboniano o quello successivo? E credo di Treboniano, io so che era quello vicino alla cascina Torchiera, quindi è stato sgombrato nel 2014 o nel 2015 ed è stato fatto per l'Expo, nel senso che l'evento era collegato alle operazioni, diciamo, di riqualificazione dell'area intorno all'Expo. E quell'evento è connesso anche alle evoluzioni di Via Bolla, ma più in generale, diciamo, i prezzi e le quotazioni del mercato immobiliare del Gallaratese, che era un quartiere abbastanza periferico, sono iniziate ad aumentare molto a partire dal 2015, e secondo me una parte della storia di Via Bolla, di questo sgombero, è anche legato al fatto che siamo entrati in una, cioè l'area, diciamo, si è modificata in un modo tale per cui adesso lì vicino c'è Cascina Merlata, adesso ci sarà la possibilità nei prossimi anni, si aprirà il Milano Innovation District al posto dell'Expo, che ci sia un movimento verso quel quartiere, e una situazione del genere iniziava a essere non solo non voluta da un punto di vista, come dire, del quartiere, ma anche in una situazione oggetto di alcuni appetiti immobiliari di un certo livello. Quindi questo volevo sottolinearlo, perché secondo me è un tassello che forse manca se non si ha un po' il quadro della situazione in quel quartiere. Sì, vai. No, per il resto credo che una parte come dire, di come sono avvenute le cose, voi l'avete un po' ascoltate anche nell'audio precedente. Io credo che sarebbe, cioè, comunque, siccome un punto politico è il fatto che è vero che le case sono state riassegnate, ma sono state riassegnate molto lontano, cioè lontano, insomma, Sì, sono fuori fuori da Milano, no? Milano. Sì, Sono anche se non mi sembra sbaglio che a siano fuori Magenta. Milano. Sì. Sì, Sì. dovrebbero essere a Corbetta, Che è che una credo sia frazione di vicino a Magenta, Magenta. sì. Sì, dovrebbero essere poi, appunto, io lo so dal compagno che prima ha mandato l'audio, per cui le informazioni che so sono da lì, però diciamo che comunque si tratta del fatto che, di nuovo, come dire, una parte di popolazione povera della città di Milano viene allontanata, di fatto. Comunque, e quindi questo è un punto, e poi bisognerà anche un po' capire quale sarà il destino di quella palazzina una volta che verrà ristrutturata, chi ci andrà a vivere, cioè sarà riassegnata o diventerà qualcos'altro. Su questo, ovviamente, al di là della brutalità dello sgombero in sé, capire se poi effettivamente sarà ancora edilizia popolare, che è un po' quello che io su cui ho molti su cui ho alcuni dubbi, ecco. Ok, invece parlando con una compagna forse insomma si percepiva che sarebbero rimaste edilizia popolare, ma questo lo capiremo col tempo. Comunque, partendo appunto dalla riqualificazione di via Bolla, passiamo a un quartiere già riqualificato che nasce già riqualificato, infatti di fronte praticamente a Bonola, alla fine diciamo il confine, se così possiamo poi dirlo, il tracciato di quel quadrante lì del Gallaratese, sta nascendo Cascina Merlata. E se hai voglia di parlarci un po' di questo nuovo quartiere abominio costruito praticamente quasi in toto da Intesa San Paolo, se mi sbaglio correggimi. Sì, di fatto non è lo sviluppatore non è Intesa San Paolo, ma un'azienda che di fatto Intesa San Paolo ha in parte salvato da un tracollo finanziario nel momento precedente all'Expo, che in parte ha costruito con l'Expo e poi si è sviluppata, ma è di fatto una specie di controllata della San Paolo al momento, quindi sì, il quartiere della San Paolo. Sì, Cascina Merlata è a, direi proprio la cascina, è proprio a circa 200 metri da via Bolla, dall'altra parte della strada 200 metri più a nord, quindi è per quello che dico che secondo me, come dire, via Bolla era, ad un certo punto i pianeti si allineano, cioè c'è la questione dell'ordine pubblico, la questione del quartiere, la questione degli investimenti immobiliari. Quando queste tre cose, come dire, iniziano a remare tutte dalla stessa parte, gli sgomberi diventano più importanti, più aggressivi. Questo è un po' quello che io almeno ho visto in giro per varie città in Italia, occupandomi un po' di questa cosa. Comunque Cascina Merlata è un quartiere che in qualche modo, secondo me, vuole rappresentare quello che dovrebbe essere il futuro di Milano dal punto di vista dell'abitante che dovrebbe vivere a Milano, ovvero un abitante non per forza ricco, perché ci sono dei social housing a Cascina Merlata e comunque non si parla di valori immobiliari stratosferici tranne nella parte più per ricchi, che però è una parte del quartiere, però sicuramente titoli educativi molto alti, credenziali educative alte, persone che se non sono ricche adesso sono persone, sono capitale umano importante da valorizzare in una città che vuole dimenticarsi dell'economia industriale e abbracciare il digitale, l'economia ad alte concorrenze educative alte, eccetera. Ed è questo il tipo di persona che si trova a Cascina Merlata, soprattutto in questo momento. Quindi sono quartieri per un ceto medio, medio-alto, concorrenze educative alte, che vuole rappresentare un po' il nuovo corso della città di Milano, e nello stesso tempo è un cioè il quartiere stesso è un prodotto della più di, diciamo, quello dall'altra parte della strada, della finanziarizzazione, cioè, ovvero è fatto da una banca e in parte è simile anche a un titolo azionario per, diciamo, certi modi in cui viene pensato e viene poi venduto. È un quartiere che viene venduto, e chiudo su questa cosa con la, come dire, molto legandosi molto al tema della sostenibilità ambientale, dell'innovazione tecnologica, che sono in questo momento un po' le nuove cifre dei progetti di riqualificazione, che non saranno più solo i palazzoni, eccetera, ma sono sempre progetti morbidi, no? Che cercano di un po' mettere, indorare la pillola con questi tipi di, cioè facciamo il parco, facciamo un certo tipo di cosa, facciamo le cose, diciamo, in un modo che può essere visto come positivo, quando poi è una grossa speculazione edilizia, ma molto grossa, nel senso che lì non c'era niente, invece adesso ci sarà una densità abitativa simile a quella del centro città. Sì, un po' diciamo la nuova scuola del bosco verticale e di quello che anche vogliono fare, tra l'altro, ad esempio in Barona, con il bosco orizzontale, ovvero questi palazzoni, questi blocchi di cemento abominevoli, dove poi gli mettono un po' di piantarelle che escono, no, fuori dalle strutture di cemento che le compongono, e dicono ok, è vero, c'è il palazzo a 20 piani, ma abbiamo 20 piani di alberi, esempio, radendo al suolo alberi e verde. Allora io ti volevo dire, appunto, hai parlato un po' di questi due esempi, il primo, diciamo, hai finito di raccontare un punto di vista che magari non è stato detto finora, invece sull'altro abbiamo parlato proprio di una situazione abbastanza eclatante, proprio di un nuovo quartiere già riqualificato che nasce, come hai detto tu, che si incentra su uno sviluppo morbido e su, pensando anche tendenzialmente, per quanto riguarda le loro parole, al verde, al modello eco-green, insomma, no, lo sviluppo sociotecnologico che avanza. Appunto, partendo da questi due esempi, volevamo capire tipo la situazione più generale di rimodellazione della città che è prevista nei prossimi anni, chi ha interesse principalmente nell'attuarla e se vuoi parlarci un po' di questa cosa in generale riguardo alle tue conoscenze. Sì, volentieri. In breve, poi ci farebbe una puntata. Breve, certo. Sì, ci farebbe una puntata apposita. Sì, sì, e poi comunque appunto io non so quanto ho vissuto a Milano per poter dare delle indicazioni, però è anche vero che ho vissuto abbastanza poco e non vivendo mai lì e quindi anche non sono così affettivamente anche legato a un posto, magari è una valutazione che può dare, come dire, una specie di visitatore. Secondo me è quello che un po' io ho visto, che il modello, almeno per quello che riguarda le cose che ho guardato, che ho più studiato io, che è quello, diciamo, dell'housing residenziale, io credo che Milano stia tentando di porre fine all'esperienza dell'edilizia popolare, con situazioni diciamo, non mi piace usare questa parola, però la uso insieme a un'altra parola, di degrado controllato, cioè di decadimento controllato delle strutture, delle situazioni, la manutenzione, quello che chiunque, insomma, vive in un contesto di case di edilizia popolare sa benissimo, non lo devo spiegare io, e per poi, come dire, far crescere sempre di più questo nuovo modello, diciamo, di edilizia a costi sostenibili, perché sono insostenibili i costi dell'housing a Milano, e questo è un problema anche per, diciamo, i ceti medio-medio-alti, perché comunque se guadagni 1.500 euro al mese a Milano fai fatica a starci in affitto, lo sappiamo tutti benissimo. E quindi sta crescendo questo modello dei social housing, che sono questo modello di edilizia a basso costo, che però, come dire, non risolve i problemi della crisi abitativa ed è legata a un pubblico che comunque ha delle entrate più alte. Vi faccio un esempio banale: io non ho la mia borsa di ricerca, non ce la faccio io a stare in un social housing, cioè costa troppo per me, ad esempio. E quindi secondo me è un po' quello che si può vedere, cioè si stanno abbandonando gli investimenti sull'edilizia popolare, si sta cercando di dire, vabbè, se volete andarvene, guardate la porta, cioè è aperta, levatevi pure di torno, e sta crescendo molto invece questa questione di social housing, cioè poi sono tante le direzioni che si possono vedere, però diciamo in questo settore specifico mi sembra che sia chiaro che si stiano cercando di distruggere delle esperienze o rendere le situazioni così pesanti che poi diventa quasi una questione naturale farle, intendo naturale nel senso non che sia veramente così, però le situazioni diventano così difficili che poi è facile per l'opinione pubblica dire vabbè, insomma, basta, nel senso, così non può andare, non può funzionare, e nello stesso tempo invece sviluppare questa edilizia finanziarizzata, leggermente pubblica, ma anche molto privata, di housing sociale. Questo, diciamo, in quello di cui mi occupo io, mi sembra quello che Milano sta cercando di fare. Perfetto, dai, grazie. Noi ti ringraziamo tanto, ci dispiace che non potrai venire alla festa di rugby sportivo settimana prossima, poi la citeremo nelle iniziative. E niente, ti ringraziamo per la disponibilità, ci sentiamo presto e ci aggiorniamo. Va bene, un saluto a voi, a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Perfetto, grazie mille, ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.